un prototipo di LibreRouter, che è un progetto che abbiamo intrapreso già almeno 4 anni fa, di fare il nostro, proprio il nostro hardware. LibreRouter, diciamo, nasce per le reti autogestite, quindi proprio è pensato, tutto viene da una comunità molto affine alla comunità di Hack Meeting, ed è pensato tutto con criteri di autogestione, di hardware libero, software libero, eccetera, eccetera, eccetera. Ma comunque, prima di capire LibreRouter, quindi bisogna perlomeno un po' capire che cos'è una rete comunitaria, no? Una rete comunitaria è sostanzialmente un gruppo di persone che, per risolvere la loro necessità di connettività, di telecomunicazione, non solo a internet, Facebook, quindi, ma anche la comunicazione tra di loro, decidono di organizzarsi e costruire la rete l'infrastruttura di rete di cui hanno necessità per comunicare. Quindi questa rete può essere composta con router, cavi, fibra, se computer stanno accesi più o meno sempre, computer stanno spenti più o meno sempre, eccetera, no? Nel mondo, diciamo, soprattutto nel sud globale, ci sono un sacco di piccole reti comunitarie che hanno la possibilità di comunicare tra di loro e con il resto del mondo solo grazie al fatto che si sono sbattuti per autogestirsi e montare la loro rete comunitaria. Per esempio, in questo posto qua, che si chiama José de la Quintana, prima che esistesse la rete comunitaria, il miglior mezzo di comunicazione che avevano tra di loro erano i walkie-talkie. E se volevano comunicare con qualcuno che fosse fuori dal raggio di 1 chilometro, quindi fuori dal posto, scrivevano un SMS con il telefono, pigliavano il telefono, lo tiravano più in alto possibile e poi lo cercavano di acchiappare prima che si schiantasse al suolo, e vedevano se, quando era arrivato più in alto possibile, l'SMS effettivamente era stato inviato. Quindi questa era un po' l'accessibilità ai mezzi di telecomunicazione che avevano in questi posti prima di organizzarsi in reti comunitarie. Diciamo che la rete comunitaria, quindi, non solo passa per un tema tecnologico e strettamente di router e di rete, sennò che, siccome è una cosa autogestita, quindi in cui i partecipanti creano e mantengono la loro rete da sé, non c'è un attore esterno che ha avuto una formazione specialistica, eccetera. A volte sì, però non è sufficiente con una persona che sia così formata. C'è tutta anche una dinamica di partecipazione a livello di apprendimento e di scambio di conoscenze in senso orizzontale tra le persone che vi partecipano. Queste reti comunitarie, diciamo, quando sono nate, che cosa facevano? Si prendevano dei router che si trovavano in commercio. Uno dei primi è stato il famoso VR54G di Linksys, poi c'è stata poi la Fonera, eccetera, che, un po' tra reversing, un po' a volte, che i produttori non se, cioè, la maggior parte dei casi no, però a volte i produttori non erano particolarmente nemici della comunità hacker. Ci si installava sopra OpenWrt, che è un sistema, è un Linux piccolino, che lo puoi installare su 4 mega di spazio, con BusyBox, quindi un intorno una shell minimale, che in qualche modo poi c'entravi, c'avevi una shell, c'entri nel router, c'è una shell, più o meno come se fosse il tuo computer, però con 4 mega di memoria permanente, 64 mega di RAM quando ti va bene. E le radio, le interfacce Ethernet, eccetera, no? Che è successo circa 5 anni fa? Che la FCC, che forse c'ho la slide. Sì, no, non c'ho la slide. La FCC, che cosa ha fatto? Che la FCC è questa agenzia americana che stabilisce le regole che devono rispettare i device Wi-Fi, eccetera, i device elettronici in generale in Nord America, negli Stati Uniti. Ha detto: oh, a noi non ci sta bene che la gente se può fare quello che gli pare col suo router. Quindi hanno fatto una regolamentazione che i device elettronici, per poter essere commercializzati negli Stati Uniti d'America, No, tu non dovevano dare la libertà all'utente di poter cambiare la frequenza della radio, eccetera. E dopodiché hanno suggerito ai vendors: guardate, la maniera più pratica che ci sembra che potete usare per fare questa cosa è che mettete il firmware del vostro hardware con una firma crittografica e che quindi si possano fare aggiornamenti al firmware del vostro hardware solo con firmware prodotti da voi e che noi come FCC vi autorizziamo perché siamo tutti amici. E quindi per le reti comunitarie questo è stato un grosso problema, perché cioè la maggior parte delle reti comunitarie in realtà dipendevano proprio dalla possibilità di poter installare software libero sopra sti device, perché comunque di solito di fabbrica ti venivano che tu lo potevi configurare per fare da access point o da cliente e basta. E poi comunque devi configurare da 1000 click per ogni router, configurare il P a mano, eccetera, che è un delirio quando hai una rete di 300 nodi. E queste reti invece che cosa facevano? C'è stata tutta una lunga serie, una storia di sviluppo di firmware liberi per router, ma diciamo, quello che si usava di più qua era LibreMesh, che è questo firmware che abbiamo sviluppato insieme a livello internazionale le varie comunità. E quindi dipendevano proprio dal fatto di poter flashare sto router. Se non lo potevi flashare, cioè se non ci potevi installare il firmware che volevi tu, e sto router te lo potevi dare in faccia, capito? Non ci facevi niente. E allora, diciamo, già se n'era parlato anni prima, più da una prospettiva prefigurativa di ricerca dell'autonomia da parte delle comunità di produrre il proprio hardware, ma in quel momento lì è diventato una necessità proprio incombente. E allora vari di noi, principalmente il collettivo Altermundi e il collettivo di LibreMesh, abbiamo cominciato a pensare: ma in realtà perché se sti vendor possono fare i router, noi non lo possiamo fare? E beh, tutta la gente, lì anche i più vecchi delle comunità, no, ma per fare un router ci vogliono i milioni, con 10 milioni di euro nemmeno fare il disegno, di qua, di là, insomma. Diciamo che le prospettive sembravano scoraggianti, però noi comunque ci abbiamo provato lo stesso. Quindi abbiamo cominciato a fare il disegno del router, a scrivere le specifiche ed effettivamente già a partire dalle specifiche abbiamo deciso che ci deve avere tre radio perché in una rete comunitaria il router principalmente fa forwarding dei pacchetti tra link diversi e quindi che cosa succede? Se c'hai una radio sola, per ogni salto la banda si dimezza e quindi quando già arrivi a 8 salti praticamente c'è poi di ciao e fa passare i ping e niente di più. Abbiamo fatto tutta una serie di scelte come per esempio i connettori Ethernet, anzi se volete ve lo faccio passare, tanto io so a memoria cosa c'è sta placca, ve la potete guardare bene. I connettori Ethernet hanno la schermatura di metallo, così possono scaricare elettricità statica a terra e non si brucia quando ci stanno le tempeste elettromagnetiche. I connettori delle radio mini PCI Express, così se io nella mia comunità ho delle esigenze diverse, posso tirare fuori una radio e mettere un'altra scheda che è standard. Sì, ma una è incorporata nella CPU, sì. Eccetera, eccetera. Tutti il pinout di estensione, quindi da poter metterci un sensore GPS o il sensore che ti pare a te, la schedina per gestire il consumo, quindi se lo stai alimentando una batteria perché vivi in un posto del mondo dove non c'è la rete elettrica. Con quella schedina lì che monitora la batteria, gli puoi dire al router direttamente: ah, invece di tenere accese tre radio, tenere accesa una. E il modulo espansione LoRa, il modulo TV White Space, che praticamente della radio a 2,4 GHz abbassa la frequenza a 900 MHz, per cui puoi fare dei link anche se non c'è la linea di vista, eccetera, eccetera, no? E quindi è tutto pensato per essere un router che risponde alle necessità delle reti comunitarie, anche perché quelli che l'abbiamo fatto siamo gente delle reti comunitarie, non è che facciamo il router che gli piace a Microsoft, no? Quindi che succede? Dopo tutta questa pippa mentale, abbiamo detto, beh, sì, non, cioè, secondo noi non ci vogliono i milioni, secondo noi lo possiamo fare con un budget molto più ristretto, anche perché i milioni non ce l'abbiamo e il router ci serve. E abbiamo cominciato a cercare dei fondi. Abbiamo scritto il progetto, eccetera. Giusto in quel momento c'è Frida, che è tipo un sottoramo di LACNIC, che è praticamente quello che gestisce gli indirizzi IP in Sud America, come il RIPE in Europa. C'era sto premio per innovazione tecnologica e sociale, abbiamo applicato, abbiamo vinto questo premio e che erano attorno ai 30.000 dollari. Con questo abbiamo fatto la prima progettazione e abbiamo realizzato il primo prototipo che è quello che sta passando, che è questo, no? Se lo passate in giro lo vedete, no? E che praticamente è una board abbastanza grande e scoperta, vedete, non c'hanno le radio, c'hanno solo la schermatura piana, questa parte non è nemmeno schermata, non ci sono dissipatori di calore, perché ci interessava che questo prototipo che arrivava, se avesse problemi, siccome quando devi fare delle cose in Cina, tipo, cioè ti mando un router dalla Cina, ti arriva tra 2 mesi, quindi se arriva con un problema te lo devo rimandare e poi me lo devi rimandare di nuovo, cioè passano gli anni. Allora, questo primo prototipo è così fatto in modo che sia più accessibile possibile. Infatti, se guardate il retro della board, quelli che ce l'avete in mano, potete vedere che in questa zona ci sono queste resistenze. Non so se nella foto da lì si vede. Vedete che questa fila di resistenze sono tutte saldate dritte. Vedete che queste stanno girate. Queste stanno girate perché in realtà quelle resistenze lì non ci dovevano stare. E quindi quando è arrivato, l'abbiamo provato, cioè ci siamo accorti che effettivamente non ci dovevano stare. Quindi le abbiamo scaldate, le abbiamo disaldate, le abbiamo girate, così è come se non ci sono. Però le abbiamo lasciate lì perché se ci eravamo sbagliati, non le perdevamo, le potevamo rigirare apposta un'altra volta. Ah no, non lo so, boh. No, no, no, non invertita. L'abbiamo disaldata da un polo? Esatto, girata in quel senso. Per esempio, e queste altre, le due porte Ethernet, per esempio, sono arrivate con il pinout al contrario. Quindi erano saltate al contrario e quindi tu attaccavi il cavo Ethernet e non funzionava. Quindi siamo stati lì a fare con il tester, a capire che cosa succedeva, eccetera. E siamo stati fortunati che erano semplicemente al contrario. Quindi abbiamo fatto il cavo Ethernet grimpato al contrario e l'abbiamo potuto usare. E poi che altre cose sono so successe con questo prototipo? Ma non mi ricordo altri difetti in particolare. Quindi vabbè, cioè, vediamo tutti questi difetti, cioè, li aggiustiamo e da questa versione facciamo, quindi con questa versione già facciamo un hackathon al centro sociale Matacrostes vicino a Barcellona e programmiamo il supporto per OpenWrt. Quindi già da lì abbiamo programmato il supporto per poterci installare il firmware libero e lo abbiamo pubblicato subito. Non era ancora accettato, diciamo, nella distribuzione ufficiale di OpenWrt in quel momento, però già era pronto. Dopo di questo l'abbiamo pure installato in dei posti dove c'era la rete comunitaria e abbiamo tolto dei device commerciali che si erano bruciati, eccetera, e ci abbiamo messo questo device qua, come potete vedere nel video. Ora, boh, non si sente l'audio, però vabbè. Il primo prototipo ne abbiamo fatto tipo 8 board. Il secondo. Ma non c'è l'audio, quindi non si apprezza molto. Posso skippare. Comunque sta crimpando il cavo, eccetera, no? Stava a dire i colori del cavo Ethernet perché come erano al contrario, tra l'altro doveva crimpare al contrario. E quindi invece di bianco arancia, arancio, eccetera, eccetera, parte da marrone, bianco marrone al contrario, no? E qua boh, lo installa. La scatola è questo, pure questo è parte del libreroute e quindi cioè, quando lo pigli, ti arriva pronto per installarlo sul tetto di casa, con le antenne esterne, perché c'ha un'antenna interna che è quella a 2,4 GHz e due antenne a pannelline esterne, così le puoi puntare meglio. E qua potete vedere, questa è una casa normale delle reti comunitarie di là, e là c'è il router sul tetto. A questo punto, vabbè, tra l'hackathon aggiustiamo le varie cose, tra l'esperienza sul campo, quindi almeno un paio di mesi funzionando sti router, vediamo insomma come li possiamo migliorare, cosa possiamo fare, e ci vengono delle idee, decidiamo delle idee di come migliorarlo. Tra queste idee, fare la scheda, se vedete quella board lì, è tutto un pezzo grande, anche se c'è un sacco di connettori che ci può attaccare altre cose. la board in se stessa è un pezzo grosso così, indivisibile, no? Quindi se tu volessi riusare solo una parte di quella board lì, non è che lo puoi fare. Cioè, puoi prendere il progetto che è libero, però insomma, ci devi lavorare parecchio. Allora, abbiamo deciso di farla più modulare, di ridurne le dimensioni perché è un fattore importantissimo quando lo devi spedire, cambia il prezzo parecchio. E migliorarne la schermatura, avere un montaggio più robusto. Se vedete le radio, cioè, le ho attaccate col filo Ethernet invece della vite, perché praticamente il buco dove dover mettere la vite era leggermente sfalsato rispetto a dove dice lo standard PCI Express. E quindi pure questa cosa l'abbiamo aggiustata. E mettere un connettore della messa eterna a terra esterno, perché nonostante già i connettori Ethernet hanno la schermatura e quindi quando tu ci attacchi un cavo ben crimpato scarica a terra da lì, è comunque una messa a terra un poco blanda e che crimpare un cavo con la messa a terra messa bene è un po' complicato, specialmente quando sei su un tetto, e quindi è una cosa che puoi sbagliare facilmente. E se sbagli, poi al prossimo temporale te si brucia il router. Quindi abbiamo messo un connettore extra proprio, così ci puoi mettere proprio un cavo della messa a terra bene con la vite, che è facile, e così ti assicuri che effettivamente sta collegata bene la messa a terra. Quindi questo è quello lì è il prototipo 01, questo è il prototipo 02. Potete vedere che adesso la board c'è una parte centrale che è azzurra e una parte esterna verde, perché effettivamente sono due board separate. Quindi c'è una board verde che la chiamo la board estensione e la board azzurra che è il core, che c'ha la CPU, le RAM, la memoria flash, lo switch e gli amplificatori della radio a 2,4 GHz. Questo bordino che vedete qua in realtà è una schermatura piana che poi nella successiva versione viene completata con una schermatura completa. E il core è collegato alla board estensione attraverso tutto il bordo, che vedete sono tutti pin. Per facilitare l'interconnessione tra la board core e la board estensione. E quindi adesso molto facilmente, se tu vuoi fare, cioè, vedi LibreRoot, dici, ah, che figo, voglio fare una cosa però un po' diversa, mi sono ispirato, invece di doverti riprogettare tutto il core, che è la parte, diciamo, più complicata, il core ti puoi comprare il LibreRouter core che è già pronto, e il resto lo colleghi a sti pin qua di lato, lo puoi fare pure con una board, quelle con i buchini, come le chiamate qua? La whiteboard, no? Per fare esperimenti, eccetera, no? E beh, qua ci stanno i connettori mini GPIO, ci sta la porta seriale, eccetera, eccetera, no? Le radio. Vedete, questa è la radio della prima generazione, c'ha solo la schermatura piana e questa c'ha la schermatura completa. Già è completamente inaccessibile, però è necessario in modo da proteggerla da interferenze. E qua, beh, come sempre vedete il trasformatore, questi qua li chiamano i magnetics delle porte Ethernet, i gas arrestor, che quindi se c'è una scarica elettrica molto forte, di alto voltaggio, invece che si bruci il router, scarica a terra da lì anche. E lo vedete, è abbastanza diversa già dalla board quella che è passata in mano. In realtà non abbiamo fatto una stima vera della versione 01 perché sapevamo che era un prototipo, quindi, però sì che diciamo, soprattutto in questa costa meno il trasporto perché è più piccola. Però il resto, i componenti sono tutti uguali. Sono riorganizzati, però sono tutti uguali. Non c'è un costo proprio della board che cambi rispetto alla versione 01. E vabbè, poi come ho detto abbiamo aggiunto la schermatura completa, i dissipatori di calore ed è la versione 1, la 1.0 stavolta. E abbiamo ordinato il primo batch, abbiamo negoziato la produzione dei primi 50, sono arrivati in Argentina, e l'abbiamo testati, funzionano tutti, sorprendentemente, perché di solito sempre ti arriva qualche cosa. Noi diciamo ne abbiamo presi 50 prima perché vogliamo fare una stima di che percentuale se ne rompono, cioè di che percentuale ne arrivano rotti alla consegna. Sono arrivati tutti a posto. Come? Sì. No, no, questo già la versione 02 già lo aveva. Ah, ok. Anche perché era facile da aggiustare quello. E niente, questo è l'interno della versione 1. Quindi vedete, la CPU c'ha il dissipatore, le radio hanno il dissipatore, cioè, vabbè, già viene montato nella scatola, eccetera. Questi qua sono i pigtail che vanno qua dietro, così ci puoi collegare le antenne esterne. Cioè, no, in realtà quelli lì vanno nell'antenna interna. Però mentre questi qua, quelli delle radio a 5 GHz, vanno sulle antenne esterne. E niente, credo, se ci avete più domande, sono a disposizione. Allora, la radio interna è per il gruppo di persone locale sulla radio, mentre le due antenne più per lo scopo di interconnessione, idealmente. Diciamo che questa è una possibilità, però anche la radio interna, in realtà, l'antenna che viene di default dentro quella scatola è leggermente direzionale, è una B-quad, non è una B-quad, però è un'antenna a pannello, che cioè, non è una roba così tipo una Yagi, però è leggermente, cioè, ha una preferenza, se tu la punti così prende meglio di là che non di qua, e quindi ci puoi fare anche qualche, non lo so, un paio di chilometri ce li puoi fare pure con quella. A seconda anche sempre, beh, questo, cioè, quando parliamo del wifi è sempre, però sì, diciamo che questa corrente di pensiero va un po' per la maggiore, di usare la 2,4 GHz per dare accesso ai client locali e le due radio a 5 GHz per fare le connessioni con gli altri router della rete. Però poi in realtà c'è, cioè, tutto molto, te lo configuri come te pare e ci puoi pure cambiare il firmware, eccetera, quindi attorno ai $100, perché diciamo questa, diciamo, tra le varie necessità delle reti di cui, cioè, che hanno impulsato questo, che hanno dato impulso a questo progetto, c'è, cioè, il fatto che sono comunque reti del sud globale, dove, cioè, diciamo che $100 qua significano una cosa, $100 là è tutta un'altra storia. Diciamo che se l'avessimo potuto fare più economico, bellissimo, però già rispetto a quello che è l'hardware, tre radio, la CPU, eccetera, eccetera, se dovessi comprare una cosa mezza equivalente dei Cisco System, spendi €3.000 praticamente. E quindi è un risultato, per me è una vittoria proprio, contentissimo. Per esempio, già le radio, quelle modulari, che le abbiamo progettate pure noi. La radio più simile nel mercato, che è meno potente tra l'altro, costa $90, mentre queste qua il costo di produzione è 15. La radiolina, che la puoi comprare pure a parte, la radio del LibreRouter. Altre domande? Quale system on the chip, quale SoC avete scelto? Allora, la scelta del SoC, anche se potrebbe essere sembrata una scelta un poco anacronistica, perché già ci stavano fuori 802.11ac, abbiamo scelto Qualcomm Atheros della serie 9000, 9XX, diciamo, no? Perché i driver di queste schede, di questo, de delle schede wireless di questa famiglia, non hanno bisogno né di firmware proprietari né di driver proprietari, e sono quelli che funzionano meglio di tutti nel mondo del software libero. E sono N, quindi già, cioè, in realtà sui link a lunga distanza, eccetera, per quello che facciamo noi, che sia N o AC, ce ne frega relativamente. E cioè, ci interessa molto di più che i driver siano software libero, il firmware sia libero, eccetera. Quindi sono Qualcomm Atheros della serie 9000. In particolare la CPU è la migliore di quella serie lì, perché, cioè, non è l'unica, ce ne sono due modelli, però costano uguale e questa era un poco più veloce. Sono due modelli che, solo, no, ci cioè sono tanti modelli di quella serie lì, però ce ne sono solo due modelli che hanno due bus PCI Express. E quindi, siccome noi volevamo mettere due radio esterne, ci serviva questo, perché avremmo potuto mettere una CPU con un solo bus, però poi dovevamo mettere uno switch PCI Express, che solo quello costa tipo $20, e e quindi avrebbe aumentato il costo della radio, il costo del device, e avrebbe, diciamo così, e così funziona meglio perché sono tutte e due le radio collegate direttamente alla CPU, senza passare per uno switch che poi avrebbero dovuto fare, avrebbero dovuto condividere il bus, eccetera, no? No, le porte Ethernet, allora questa CPU ha una porta Ethernet, cioè ha due porte, che una SGMI e l'altra non mi ricordo come si dice, e c'ha un chip che è uno switch hardware Ethernet, quindi questo switch è collegato da una parte alla CPU e dall'altra parte alle porte Ethernet esterne. Quindi cioè, poi lo puoi proprio configurare come... Più le due radio non sono nello switch Ethernet, le due radio vanno direttamente alla CPU, sì. Beh, è un altro protocollo, diciamo. Altre domande? No, 0.3 non esisterà perché già c'è la 1.0. Vedremo, cioè non, ancora... Cioè ora quando avremmo 500... Ora, in realtà già abbiamo tipo una coda di 10.000... richieste della versione 1. Ora con i primi 500 guarda, i primi 50 già li installeremo, alcuni in Colombia, alcuni in Argentina, altri in Messico e forse qualcuno a Cuba. Gli altri 500 che arriveranno già sono tutti presi, praticamente non mi ricordo tutti i posti, in Africa, eccetera, eccetera. E quindi comunque già quando sti 500 saranno in giro e si usano, probabilmente avremo più feedback e più informazione dal campo per avere più idee, no? Una cosa interessante che ci piacerebbe per la prossima generazione, per esempio, sarebbe se in poco tempo, per esempio, le CPU RISC-V, che è la CPU stessa ad essere aperta e sia disponibile sul mercato e usabile per hardware stabile, sarebbe interessante poter disegnare un router che usi una CPU RISC-V, in modo che la CPU stessa, cioè quel quadratino nero che non abbiamo potuto disegnare noi, sarebbe open pure quello. E così via. Cioè, per esempio, un'altra cosa che sta succedendo adesso, ci sono dei chip wireless di MediaTek che sono allo stesso tempo sono AC e hanno dei driver che sono a codice aperto. Per esempio, se questi driver diventano abbastanza stabili e con delle buone performance in tempi ragionevoli, una cosa interessante sarebbe progettare delle radio simili a quelle che sono montate lì, però basate su chip MediaTek che supporta 802.11ac. Un'altra cosa che abbiamo pensato è che due delle porte, ce ne sono due che sono Ethernet, altre due porte farle con connettore SPF e quindi poterci mettere la porta in fibra direttamente sul router. Perché è particolarmente interessante questo? Perché in posti dove ci sono tempeste elettromagnetiche, i cavi Ethernet lunghi sono tipo delle antenne, praticamente, no? E quindi quando arriva il fulmine, eccetera, se ti piglia il cavo Ethernet, è fritto il router. E la fibra no, la fibra non è conduttrice, puoi fare i cavi Ethernet arrivano massimo a 100 metri, con la fibra poi fa chilometri, e quindi sarebbe un'altra cosa molto interessante per le reti comunitarie, perché ti puoi stirare la fibra proprio tua, che già in alcuni posti si fa, però si fa col media converter, e avere il supporto direttamente nel router sarebbe molto interessante. E niente, quindi in realtà l'input ci viene dalle comunità, no? Quando le comunità li useranno, ah caspita, si è torta, sti cazzi. Quando le comunità li useranno ci diranno, ah, ma questa cosa che ve ne pare, quest'altra, poi cioè, ne parliamo e vediamo cosa potrebbe esserci nella versione 1.1 o così via. C'era un'altra domanda, però non mi ricordo chi era. Scusa, non ti ho dato il microfono, però me lo sono dimenticato. Con quale software avete disegnato la schedina? Questo... Allora, una parte è stata fatta con KiCad e un'altra parte è stata fatta con Eagle, che è gratis, però non è software libero. Però vabbè, sono quelle cose che dicevo, quello che faceva uno di quelli che aveva un ruolo principale nel disegnare la scheda, sapeva usare quello e non c'era tempo perché imparasse a usare un altro, eccetera, eccetera. Per la prossima generazione. Però una parte, a parte che gli schematics prodotti sono compatibili con KiCad, quindi il codice della scheda, cioè il codice che rappresenta la scheda, gli schemi lo potete aprire con KiCad che è free software ed è pubblicato tutto, eccetera. Però sì, è vero che una parte del lavoro è stata fatta con Eagle, non quello che ho fatto io. Quanto consuma? Allora, non ho fatto delle misurazioni esatte io personalmente, però se non ricordo male, l'abbiamo alimentato con un alimentatore da 12 volt 1 ampere, quindi 12 watt, caricandolo, cioè facendo lavorare le tre radio al massimo, la CPU al massimo, la Ethernet al massimo, e non schioppava. Quindi con 12 watt ce la fa. Un'altra cosa che abbiamo fatto in questo router è che ci sta il power over Ethernet nelle porte che ha, e abbiamo provato pure che attraverso il power over Ethernet non solo puoi alimentare un altro device piccolino, se no puoi addirittura alimentare un altro libre router intero. Sì, sì, con lo stesso alimentatore. Ora, in quel caso non so se cioè, probabilmente consuma 24 watt, un poco di più, però l'abbiamo testato e funziona. Però diciamo, non sono misurazioni esatte, anche perché già era prevista la cosa di un modulo di basso consumo che quindi monitora se è alimentata una batteria, monitora lo stato di carica, in quel caso spegne una radio, eccetera. Un altro modulo che un collettivo indipendentemente da noi si era presentato a un bando per fare un modulo LoRa per attaccarlo al libre router, l'hanno vinto, però poi il modulo non l'hanno fatto. Però e quindi un'altra cosa interessante sarebbe fare questa estensione di low pan, diciamo, di delle reti a larga distanza, a poca potenza e poca banda, che potrebbe servire nel caso in cui la batteria è molto bassa. Allora gli si dice al router: spegni tutte le radio e resta solo il modulino a dire: so qua, sono vivo, ho la batteria a terra, per esempio, no? Altre domande? Contatti con Freifunk. Allora, sì, contatti con Freifunk, diciamo, Freifunk sono quelli che principalmente ci dicevano che ci volevano i milioni per fare l'hardware. Beh, da bravi tedeschi, tutto difficile, tutto duro, questi qua che arrivano in ritardo, ma dove fanno router, no? Però, diciamo, Freifunk, quando hanno visto che la cosa effettivamente la stavamo facendo, si sono interessati un sacco, ed il modulo. Diciamo, la prima versione del modulo di TV White Space, ovvero quello che converte il segnale da 2,4 GHz a 900 MHz, l'ha fatto Electra di Freifunk. Non so se la conosce, qualcuno di voi è sicuro che la conosce? Altre domande? È sicuro, sicuro. Cioè, quella parte lì non l'ho gestita io, però sicuramente che sì. Allora, noi diciamo che anche il progetto è stato fatto, tutto il disegno è stato fatto in modo che sia il più facile possibile da poterlo produrre localmente. Quindi, per esempio, che ne so, il core, che è la parte più complicata, anche quello si può produrre. Abbiamo visto in Argentina se c'era la tecnologia sufficiente per produrlo, per esempio, no? E quindi, non lo so, credo che la cosa più facile. E che quindi il cammino che seguiranno sarebbe comprarlo direttamente a Draghino, che sono quelli che l'hanno fatto insieme a noi questo. E che Draghino è una fabbrica di hardware in Cina che fanno open hardware. E quindi credo che seguiranno quella politica lì, poi non lo so. Se avete più domande. Boh, non lo so. Vabbè, comunque io sto là all'Anspace, sono nel giardino, quindi se mi volete parlare più domande, se ci vogliamo sedere a parlarne di più, senza problemi, un piacere. Grazie per l'attenzione.